si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. Si può fare. Oggi avete la possibilità al nostro numero verde 800 24 00 24 di sfogarvi preventivamente su quelli che sono i regali di Natale che non volete ricevere, che se li riceverete siete pronti a restituirli, magari no, ma a riciclarli, questo sì, perché riciclare il regalo di Natale si può fare. Cappelli, guanti, sciarpe, cose da mangiare, dolci, ognuno poi ha la sua idiosincrasia. Io per esempio, se ricevo un altro portafogli o una di quelle cornicette a forma di cuore, o che poi magari non indirizzata a me ma a qualcuno della famiglia, sono pronto a riciclarle assolutamente. 800 24 00 24, chiamateci e sfogatevi. Quest'anno non voglio ricevere che cosa? Una bella iniziativa di riciclo, per esempio, viene da Pietra Ligure. Sentite qua, i bambini delle scuole, grazie all'impegno del comune, hanno realizzato dei kit per fare le confezioni dei regali che hanno poi regalato ai negozi, ai commercianti di questa città. Tutte cose fatte con stoffe, carte di giornale riciclate, eccetera, quindi una cosa molto originale, con un logo particolare per sensibilizzare anche i bambini contro lo spreco. Siamo forse in tempo per copiare questa iniziativa anche altrove. 800 24 00 24, però noi oggi vogliamo parlare anche di temi un po' più alti, e siccome insomma ormai si è aperta la crisi politica, il governo Monti se ne sta per andare, è una buona notizia, vi chiediamo, molti dicono finalmente ritorna la politica, si smetterà di parlare solo di tasse, e quindi questa è una buona notizia. Però insomma qualcun altro invece dice, beh insomma si cominciava a vedere qualcosina, per esempio, che so, l'abolizione delle province, l'accorpamento delle province di cui si parla da 100 anni, c'era una legge, è caduto il governo Monti, la legge probabilmente sparisce. L'altra cosa abbastanza importante, un po' tecnica, ma insomma, il pareggio di bilancio che andava inserito tra i principi costituzionali, anche questa è una cosa che va così sparendo, va scemando con il governo Monti. 800 24 00 24, vogliamo sapere voi cosa ne pensate. Per esempio questo ascoltatore sulla questione del pareggio di bilancio ci ha chiamato e ci ha detto questo al nostro numero verde, che prosegue: per lasciare la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto alla segreteria telefonica. Un'altra ricetta per salvare l'Italia, se mi permettete. In una famiglia si deve fare il passo lungo quanto la gamba. Se una spesa, una vacanza eccetera non si può fare, non si fa. Se una spesa militare non ce la possiamo permettere, non si fa. Una spesa spaziale per le ricerche spaziali non ce la possiamo permettere, non si fa. E così via. L'Italia ha lo stesso difetto di ciascun individuo italiano, cioè la megalomania. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Non c'è fortuna, non c'è destino, non c'è sorpresa per me. Non c'è vittoria né aspirazione così importante per me. Non c'è bellezza, frase ad effetto o un'assoluta verità. Ma c'è un istante nell'universo, attimo eterno, in cui mi sento unica. Perché niente come te. Devono averlo pensato anche i sindaci di questi 5 comuni della provincia di Bologna, niente è come te e me insieme, che si sono messi insieme naturalmente per risparmiare, e hanno sostanzialmente approvato una fusione, unici credo in Italia, nel mondo, non lo so, insomma, contro ogni particolarismo, una fusione di questi 5 comuni. Sono Monteveglio, Crespellano, Castello di Serravalle, Savigno e Bazzano, hanno votato un referendum e andranno verso la fusione. Vogliamo capire se sono degli alieni o cosa, e allora lo chiediamo ad Elio Rigillo, che è il sindaco di Bazzano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tra l'altro vedo dalle cronache che il suo è il paese dove invece aveva vinto il no al referendum, quindi cioè voi eravate contro. Esatto, sì. Quindi sì, però sì, dovete a questo punto cosa fare? Buon viso a cattivo gioco? Come funziona questo? Ma funziona che comunque il referendum complessivamente sui 5 comuni è passato. È passato, quindi con il 51,5%, una maggioranza comunque piccola, ma c'è. Sì. E poi abbiamo il nostro risultato su Bazzano, che dobbiamo gestire ovviamente con tutta la cittadinanza. Vabbè, ritornando di nuovo a parlare. Lei sindaco però si era espresso favorevolmente, penso di sì. Certo, quindi diciamo, c'è stata poi esatto, una resistenza da parte di una parte della cittadinanza. Abbiamo anche il nome che è stato scelto contestualmente con questo referendum, Valsamoggia, sarà questo il nome del nuovo comune. Tra l'altro sono piccoli comuni, ma abbastanza storici per chi conosce l'Emilia e Bologna, Monteveglio, Bazzano, insomma Crespellano, sono comuni di cui si è sentito parlare e che hanno anche una loro radice storica. Quindi a questo punto quanto manca perché diventi concreta questa fusione? Ma intanto appunto abbiamo avuto il referendum il 25 di novembre, adesso la regione ha tempo 60 giorni prima di fare la delibera in assemblea legislativa, dopodiché il comune potrà nascere con decorrenza dal 1 gennaio del 2014. Beh, insomma, c'è ancora tempo per ripensamenti, perché poi sa com'è, in Italia si pensa male ma ci si azzecca, come diceva qualcuno giustamente. Come nasce questa idea però da parte vostra di andare verso questa fusione di questi piccoli comuni? Facile immaginare che se fosse per voi le province sarebbero già tutte belle che accorpate o abolite. Certo che sì, noi pensiamo che questo possa essere un viatico anche per le riforme istituzionali di cui l'Italia ha bisogno su tutti i livelli. Quindi noi siamo partiti in realtà da un'esperienza di una ventina di anni fa in cui abbiamo unificato i servizi, quindi alcune gestioni sono già associate fra i comuni e adesso abbiamo pensato di fare il passo successivo. E quindi in questa legislatura siamo stati eletti nel 2009 con un programma di mandato e abbiamo cercato di realizzare tutto all'interno del nostro mandato, perché dobbiamo pensare che l'orizzonte, la prospettiva deve essere quello, insomma. Insomma, non si deve sfuggire a questa cosa. E questi comuni quanto distano tra di loro? Cioè ci sarà un comune che si chiamerà Valsamoggia e avrà delle frazioni a quel punto che saranno queste, appunto Bazzano, Crespellano, Monteveglio. Quanto siete lontani gli uni dagli altri? Ma ci sono distanze varie, comunque è un territorio abbastanza ampio di 178 km quadrati. I paesi sono collegati, sono tutti a 4-5 km di distanza gli uni dagli altri. Quindi siete abbastanza vicini, insomma. Quindi non ci sono distanze enormi, però il territorio è ampio, è vasto, è in gran parte agricolo, ha delle problematiche anche diversificate, perché ci sono paesi che attualmente sono in pianura, altri che sono in collina. Vabbè, però questo non ha impedito, è un territorio che è abituato a pensarsi unitario. È questo il punto, non ha impedito queste differenze di ragionare invece su un'unità e quindi diciamo nei cittadini che hanno votato questo referendum lì da voi c'è questa maturità, questa consapevolezza, questa idea che si può tranquillamente a livello amministrativo essere un unico comune senza perdere nulla. Ecco, questa è la cosa che sicuramente è più importante, un messaggio che si può mandare un po' anche all'Italia, no? dei territori. Come scusi? No, le stavo chiedendo, è un messaggio che si può mandare all'Italia, quello di ragionare in termini di unità, di una livelli amministrativi semplificati. Poi l'identità di ogni territorio, quella non c'entra nulla. Deve rimanere. Esatto. Deve essere rinforzata, anzi, in un territorio più ampio. Tenga presente che noi siamo poi chiamati anche a dare dei servizi, perché noi è quello che dobbiamo garantire poi alla cittadinanza, e noi oggi siamo in una situazione estremamente problematica, è da qui che è nato fondamentalmente la nostra riflessione, cioè se riusciamo a darli unitariamente li diamo, altrimenti siamo... Quindi diciamo il messaggio che viene da Valsamoggia è questo: poche chiacchiere, se il problema è dare risposte ai cittadini allora l'unità fa la forza e quindi il resto sono chiacchiere. Io la ringrazio. Ci risentiremo sicuramente più avanti con voi per vedere questo progetto quando approderà a concretezza. Intanto grazie per essere stato con noi. Parlato di sindaci, ma in realtà sono sindachesse, quattro sindachesse in posa per un calendario non necessariamente osé, per denunciare i soprusi del potere centrale, cioè del governo, niente popò di meno. Siccome noi crediamo nei comuni virtuosi, c'è anche una bellissima associazione che porta questo nome, allora vogliamo sapere che cosa c'è dietro. Prima di tutto i nomi delle sindachesse: Francesca Ceruti di Redemello, Tiziana Panigara di Gambara, Chiara Pavesi di Isorella e Chiara Pillitteri di Fiesse. Noi siamo in collegamento con Tiziana Panigara di Gambara. Buongiorno Tiziana. Buongiorno. Allora, prima di tutto, una premessa la faccio io. Mi scusi. Gambara. Gambara, va bene. Dice Gambara, precisiamo. Gambara, io conosco anche Gambara, ma questo è Gambara. Io non chiedo mai il colore politico dei sindaci, degli amministratori che vengono a parlare qua, perché penso che in questo contesto sia importante quello che fanno e non il partito a cui appartengono. Però siccome questa è una protesta di un vago sapore leghista, io non la so la risposta, vi chiedo, ma voi siete della Lega? Allora, ci sono due della Lega e due del PDL. Brave, quindi siete miste, miste di centrodestra, sì, PDL e Lega. Allora, che succede? Ci spieghi un po' perché questa iniziativa? Allora, questa iniziativa nasce dall'esigenza di far capire ai cittadini che i sindaci, soprattutto i sindaci dei piccoli comuni, come siamo noi, quattro sindaci dei piccoli comuni, sono dalla parte dei cittadini e anche noi non ne possiamo più. Ne possiamo più del di fatto cosa? Che siamo costrette, attraverso poi l'emanazione di leggi, dei decreti che arrivano con l'IMU, con la spending review, con il patto di stabilità, con tutte queste parole si trasformano infatti, anzi, si trasformano in una mano che piano piano arriva nelle tasche dei cittadini. E sembra che siamo noi sindaci che mettiamo mano ai cittadini, cioè le mani dentro nei loro portafogli. Invece ma voi siete caso, esecutori spesso di una serie di questioni che vengono dall'alto. Siamo sì, esecutori testamentari, dei quali poi vediamo direttamente anche i risultati. Ma il calendario l'avete venduto? Cioè il messaggio il è passato? Il calendario si fa fatica a vendere, si fa fatica, stiamo facendo pubblicità al massimo, si fa fatica, se noi crediamo molto nei nostri cittadini, sì, molto anche chi lo vorrà, e faremo pubblicità perché questo sia acquistato anche fuori dal nostro territorio. Sentiamo malissimo, tra l'altro delle quattro sindachesse ce n'è una in verde, perché eravate bianco, rosso e verde vestite, che poverina sembrava un medico, era venuta proprio. Invece siete anche delle belle figure, quindi ci stava dicendo l'iniziativa state cercando di portarla avanti, ma il calendario con che soldi l'avete fatto? No, perché sennò poi uno dice ma questi... I soldi sono i nostri, abbiamo messo i nostri soldi e ci hanno sponsorizzato l'ACB Servizi e l'ACB, sì, l'Associazione Comuni Bresciani, l'Associazione Comuni Bresciano dei Servizi di questa associazione, e una ditta privata, la Provagliese. Senta, che ringrazio io, infinitamente. Sì, avevo fatto una domanda in apertura del programma e chiedevo agli ascoltatori all'800 24 00 24, lo chiedo anche a lei, sì. Però credo che la sua risposta sia che la buona notizia è il governo Monti sta cadendo. Molti dicono il ritorno della politica, si smetterà di parlare solo di tasse e di tagli, che è un po' anche il messaggio che ci stava dando lei. Altri però dicono ma sul fronte dei risparmi si stava facendo qualcosa di utile, l'accorpamento delle province, il pareggio di bilancio in Costituzione, sono cose che cadranno con il governo Monti. A lei in 30 secondi chiedo, è una buona notizia la caduta del governo Monti? Allora, a noi in questo momento qui, se lei mi chiede una questione politica, noi stiamo parlando di quello che gridiamo noi, piccoli comuni, non è cambiato niente, le leggi che c'erano prima di Monti ci saranno anche dopo, noi dovremo comunque fare accorpamenti di comuni, noi dovremo fare la spending review, noi dovremo dal 2013 avere il patto di stabilità. Se ci tolgono questo, ben venga un altro governo che tenga in considerazione le richieste dei piccoli ma anche dei grandi comuni. Benissimo. Ci sono fermi noi milioni di abbiamo euro fatto che la devono nostra essere parte. Dati alle nostre aziende. Sì. Dobbiamo fermarci qua, grazie, abbiamo fatto la nostra parte, vi abbiamo dato un po' di spazio per la vostra protesta, 4 sindacesse in calendario per denunciare i soprusi del potere centrale. Ritroviamo con piacere Barbara Roncoletta della libreria Librarsi di Bolzano. I Can Do It, posso farlo. Qualche mese fa lei e la sua collaboratrice l'hanno fatta, hanno aperto una libreria in un quartiere popolare di Bolzano, un'iniziativa salutata anche dal Festival della Resistenza di Bolzano. Noi avevamo dato l'annuncio con grande entusiasmo, un caffè letterario in un quartiere diciamo un po' dormitorio di Bolzano, due donne già in un'età avanzata dal punto di vista professionale. Adesso però dopo qualche mese vi chiediamo, Barbara, buongiorno. Buongiorno a voi. Come va? Vanno le cose, il caffè letterario, la libreria funzionano, oppure siete anche voi alle prese con questa benedetta crisi? Beh, no, devo dire che adesso sono passati 8 mesi dall'apertura, sì. e che c'è stato un costante aumento, diciamo, di lavoro. Certo, logicamente partendo all'inizio non è che ci fosse tutta questa gente, ma bisogna farsi conoscere, ci vuole pubblicità, certo. E quindi l'aumento c'è, è costante, la vostra iniziativa, possiamo dire una scommessa vinta in qualche modo, cioè aprire, ripetiamolo, una libreria, come si chiama il quartiere? Don Bosco. Don Bosco, un quartiere che non è ricco di queste iniziative normalmente. No, assolutamente, qui una libreria non c'è mai stata. Beh, e l'apertura delle librerie è stata accolta con entusiasmo dagli abitanti della zona, sì, anche perché gli evitiamo di recarsi in centro per l'acquisto di un libro. Quindi, insomma, il messaggio è che si possono aprire delle iniziative culturali, anche commerciali, come una libreria per esempio, se ne vedono chiudere purtroppo molti di negozi storici, compresi le librerie, che chiudono e non riaprono. Voi invece avete rilevato un'attività che stava chiudendo, l'avete rilanciata. No, era un negozio che che aveva chiuso da un po', E quindi, insomma, ci state provando. Adesso, tra l'altro, è Natale, quindi speriamo che vengano a trovarvi. Adesso è anche il momento buono. Sì. E comunque, iniziative particolari per Natale? Vogliamo lanciare qualcosa? Sì, certo. Magari come libri che vanno per la maggiore. Abbiamo in testa, diciamo, il libro di Luis Sepúlveda, sì, Storia di un gatto e del topo che diventò un amico, che è un libro che va bene per tutti, piccoli, bambini, e grandi. Certo, certo. E se io nella zona, nell'Alto Adige, un Lili Gruber con L'eredità funziona. Funziona molto. E poi c'è anche, non so, l'oroscopo di Paolo Fox, che visto il momento... Purtroppo questi oroscopi, io dico purtroppo perché secondo me sono una cagata. Una boiata pazzesca, si può dire, no? Sì, l'ho detto. Sì, certo. Vabbè, comunque ci si diverte, chi crede, insomma, ci si diverte. No, adesso... Senta, Barbara, ancora 30 secondi perché poi dobbiamo chiudere. Okay. Le voglio chiedere questo, ricordiamo, lei cosa faceva prima? Cioè, voi venivate da, lei e la sua socia, da un mondo precedente che non avevate nulla a che fare. Cioè, no, io lavoravo lavoravo in libreria. Già in libreria? 15 anni, sì. Però era una dipendente, ha fatto il passo e è diventata titolare. La libreria ha chiuso e perciò io dovevo continuare a lavorare e questo è stato la ragione e anche, insomma, era anche un desiderio, comunque una cosa che mi sarebbe sempre piaciuta. Insomma, il saldo a questo punto è, diciamo, non è negativo. Chiuso una libreria, ne ha aperta un'altra e quindi lei si è resa autrice di questa bella iniziativa, Si può fare. Da Bari, buongiorno Mimmo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei che cosa non vuole ricevere? Ha chiamato per questo? Sì, io ho chiamato perché ogni anno ricevo sempre camicie, maglioni di lana. E sono camicie della taglia sbagliata, tra l'altro, in genere, no? Sì. E questo è il problema, sì. Sempre X. Lei invece che taglia porta? Io la S. Allora ragazzi, qui proprio c'ha degli amici che sono che non ci sanno fare. Quindi lei restituirà camicie, cioè restituirà, riciclerà camicie, mi raccomando, non sbagli la taglia, maglioni, cappelli, babbucce, tutte queste cose di lana che sono piene di mercatini. È una cosa pallosa perché ogni volta ricevo sempre gli stessi regali. Lo so, forse bisogna scegliere bene a chi restituire, a chi riciclare, con chi riciclarli, perché sennò si commette lo stesso errore. Attenzione, cari ascoltatori. Grazie comunque, Mimmo. C'è anche Ivana che ci chiama da Arezzo. Ivana, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo rispondere a un'altra cosa, riferimento a Monti, comunque rispondo anche a Cotest dei doni riciclati. E io ricevo sempre delle cancavolate che non mi piacciono mai. Cos'è che riceve, scusi? Sono tutte in beneficenza. Non ho capito, si cos'è? Come? Cos'è che riceve? Tante cose, tipo soprammobili, candeline, le famose, tutte cose cineserie che a me le odio. Cineserie, abbiamo capito perfettamente. Cineserie, allora io quando c'è il calcite, si fa il mercatino ad Arezzo del calcite, io le dono, perlomeno il ricavato va in beneficenza. Comunque io volevo rispondere riferimento a Monti, avevo chiamato per quello. No, una buona notizia il fatto che cada il governo Monti, io ho detto torna alla politica, dicono alcuni altri, però dicono si stanno perdendo per strada delle leggi. Però nel momento sbagliato è cascato, ecco. Perché ormai doveva finire di fare le sue riforme, tant'è vero doveva fare quella di abbassare gli stipendi dei signori politici, visto che a noi poveri disgraziati ci hanno aspirato anche i polmoni, tutto dalle tasse, tutte l'IMU, tutte le, e per sé non si sono tolti niente. Ma non ho capito se lei dava fiducia a Monti di continuare un altro po' questo lavoro, oppure se secondo solo lei ha perso l'occasione solo per fare queste ultime riforme, solo per quello, perché io sono contro Monti totalmente. Ma ormai che c'era, doveva fare le province, va bene, questo tante, infatti era stato approvato sì. A tutti, non va bene, abbiamo capito, grazie Ivana, abbiamo capito, c'era la questione delle province, era stato approvato tutto un passaggio, poi adesso probabilmente questa cosa verrà congelata, chissà che fine farà. Adesso vi volevo leggere una notizia che mi era molto piaciuta in settimana, un articolo di Federico Rampini su Repubblica, una ricerca compiuta dalla società di consulenza Boots & Company e pubblicata dal Wall Street Journal, secondo la quale la bottiglia media di shampoo trattiene il 10% del suo contenuto. Ci sono altre confezioni alimentari, secondo questa importante ricerca pubblicata in America, che trattengono fino al 25% di prodotto, e quindi questa cosa sta diventando un problema almeno negli Stati Uniti, tanto che secondo questa ricerca il 50% delle famiglie si sta adoperando per allungare la durata di vita dei prodotti che acquistano. Allora stanno correndo ai ripari le grandi marche, dice Federico Rampini, questo imperdibile articolo su Repubblica. I nomi non ve li sto a dire perché non sono in grado di pronunciarli, sono marche che non conosco, però stanno cambiando il packaging per evitare di sprecare il prodotto, cioè uno paga il 100% e poi usa il 60%, e questo naturalmente non va bene. Cose che hanno a che vedere con un'idea di sostenibilità e di consapevolezza. Di questo parleremo tra poco. We'll be right back. Loro si impegnano perché il rispetto delle persone, ma anche della terra e degli animali, siano sempre più centrale nelle nostre scelte, scelte consapevoli. È anche per questo che oggi si riuniscono a Bologna nella giornata della consapevolezza globale, una cosa un po' misteriosa. Di che si tratta lo chiediamo a Nitamo Montecucco, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente, tra l'altro, del Club Budapest Italia. Italia, sì. Così? È un'associazione internazionale che ha come scopo semplicemente quello di favorire una visione più planetaria, più olistica, più globale. Oddio, già tre parole difficili. Planetaria, no, vabbè, olistica, non so che vuol dire, no. Globale, quasi. Andiamo per ordine, però. Quasi. Molto semplicemente, cioè, noi siamo abituati da millenni, sì, a vivere in una società locale, per cui ci immaginiamo che possiamo buttare la carta straccia o le pile scariche perché la natura è vasta. Pian piano ci rendiamo conto di essere cittadini di un pianeta globale, per cui, sì, se buttiamo le pile ci ritornano magari dopo qualche anno come mercurio dentro gli animali. O comunque che magari non direttamente quelle che abbiamo buttato noi, ma quelle che ha buttato qualcun altro. Detto, ma quelle che magari, esatto, Chernobyl è arrivato fino in Italia girando attraverso gli Stati Uniti, l'Europa occidentale fino in Italia, cioè il fallout gira, quindi noi dobbiamo aprire una visione che da locale appunto deve diventare più sistemica, diciamo così, più allargata. Ecco, senta, ma noi abbiamo a volte l'impressione che questo sia un problema particolarmente italiano, cioè il menefreghismo, detto proprio in parole brutali, no? Che uno se ne frega delle conseguenze delle proprie azioni nell'ambiente, ma anche in generale, basta pensare al bene comune, a tutta la questione del pagare e non pagare le tasse. Però, visto che voi siete avete una dimensione globale, non è così? Questo è un problema mondiale, oppure in effetti in Italia ce l'abbiamo un po' più degli altri? Assolutamente internazionale, nel senso che noi abbiamo fatto delle ricerche in Italia, ma anche negli Stati Uniti, in diverse università del mondo, in Giappone, in Francia, in Ungheria. È così un po' dappertutto. Le ricerche hanno, diciamo, dato gli stessi dati. C'è un 30% di persone che questo è interessante il sondaggio, si interessa, sì, dell'ambiente, che si interessa, sì, dell'essere umano, della salute, degli animali, del volontariato, dei diritti, eccetera, e c'è un 60% che non si interessa. Quindi i consapevoli sono in netta minoranza al momento, non nettissima, sono, però non insomma, neanche tanta netta, perché ormai da queste ricerche che sono state fatte nel 2005-2006, adesso le ultimissime ricerche dicono che questo 35% della popolazione è in aumento, già salito al 40%, quindi le previsioni sono che intorno al 2010-2020 possano raggiungere quasi la metà, il 51%. Sarà anche complice questa crisi economica globale, che questa idea delle conseguenze delle cose ce l'ha messa un po' dentro. Qual è il programma della vostra giornata? Cioè, cosa fate? Vi trovate al Paladozza, credo, lì a Bologna? Siamo al Paladozza, sì? Ci aspettiamo un 3-4 mila persone, quindi sarà un incontro molto grande. Abbiamo invitato persone che da anni lavorano a livello internazionale per creare questa, diciamo, consapevolezza globale, e quindi magari creando reti, creando libri, creando consapevolezza a tanti livelli. È un po' difficile immaginarsi qualcosa di concreto da cui partire, da attaccarsi. Ma guardi, su questa idea, io sono medico, per esempio. Le malattie da inquinamento ormai coprono quasi un 30% di concause, sì, ossia i bambini che hanno l'asma, tutti i tumori, le malattie cardiache, le malattie gastrointestinali hanno una base fortissima proprio sull'inquinamento, sullo stress. Il nostro modo di vivere influenza tutta la nostra vita, influenza le relazioni. Quindi lei dice una cosa più concreta della salute non c'è. Senta, c'è anche un sito, se ho capito bene, censimentoglobale.it, a che, esatto, serve? Serve semplicemente a creare, noi un anno fa abbiamo visto queste ricerche, sì, incredibili, perché dire il 35% della popolazione è orientato in una visione più ecologica e così è tantissimo. Allora ci siamo chiesti, ma come mai queste persone non si vedono? Il motivo è perché ovviamente non sono ancora il modello, diciamo, che adottano non è il modello corrente. E sono poche, e una delle domande che hanno fatto in tutto il mondo, in tutte queste ricerche fatte dall'Università di Pittsburgh, dall'Università di Siena in Italia, dall'Università di Kyoto in Giappone. Sì, vabbè, insomma, un po' di università. Dicono che le persone pensano di essere sotto il 5%. Cioè la quindi c'è una consapevolezza inferiore di quella che è la realtà. Tra l'altro questo potrebbe essere, Montecucco, anche un suggerimento per le prossime elezioni politiche in Italia. Cioè i partiti sappiano che in realtà c'è un 30% di cittadini e quindi anche di potenziali elettori che hanno a cuore la sostenibilità, le conseguenze delle proprie azioni, sanno che l'ambiente va salvaguardato, che bisogna comportarsi in un certo modo. Quindi questo potrebbe tornare anche utile. Interessante, nelle prime elezioni di Obama, Obama è andato alla presidenza degli Stati Uniti perché Paul Ray, il sociologo che ha creato le prime ricerche negli Stati Uniti, è stato preso nello staff presidenziale perché Obama diceva: io voglio dare esattamente questo messaggio, un pochino più umano, più a sostegno dell'ecologia. I votanti che hanno permesso a Obama di essere eletto erano quel 10% che normalmente non avrebbe votato, ma sentendo un messaggio. Non vorrei fare un parallelismo che qualcuno possa sembrare una endorsement elettorale, però mi ricorda quando Bersani dice continuamente, ossessivamente, non vi voglio fare promesse, voglio dirvi la verità, voglio essere credibile, voglio dirvi quello che vi aspetta, cioè cose un po' minacciose che però mi sembra che richiamino questo concetto di consapevolezza. In un secondo, perché dobbiamo chiudere, va di moda adesso avere il Pantheon, no? Il luogo dove ognuno espone i propri idoli. Tanto per orientarsi, voi ce l'avete un Pantheon? Chi sono i vostri punti di riferimento? Enorme, cioè dal passato al presente, tantissimi personaggi, ma anche registi, registi di film, qualche nome, scienziate, ma per esempio il piccolo Buddha, i film di Al Gore sull'inquinamento, quindi il presidente Václav Havel della Repubblica Ceca, prima che morisse, ha fatto degli scritti stupendi, l'ex presidente dell'Islanda, Vigdis Finnbogadottir, ha scritto delle cose stupende. Vabbè. Noi abbiamo intervistato due settimane fa la presidente del Costa Rica, donna Laura Cincilla, che ha hanno eliminato l'esercito e i soldi per l'esercito. Vabbè, ma in Costa Rica mi scusi, è più facile perché sono talmente pochi, però insomma, pochi lo sanno, è una notizia curiosa. Sì. Anni è passato da uno stato ad altissima a grandissima povertà e ad altissima conflittualità, criminalità, a uno il più virtuoso degli stati. Ha aumentato l'economia, ha migliorato tutte le fasce sociali. Quindi, insomma, nel vostro Pantheon c'è anche la presidente del Costa Rica, ho visto che citate anche Einstein. Certo, vabbè. Tutte le persone che comunque stanno facendo dei lavori, poi ovviamente i grandi capi del World Watch Institute, delle Nazioni Unite, della Carta della Terra. Dobbiamo fermarci qua però, mi dispiace Nitamo, ma abbiamo esaurito il tempo. Grazie però per averci spiegato cosa succederà oggi a Bologna, la giornata della consapevolezza globale. Chi fosse interessato, insomma, può andare, c'è tempo, si può aderire, si può informarsi anche su internet. Vi stiamo dando l'opportunità all'800240024 di sfogarvi preventivamente sui regali che non volete ricevere a Natale, che siete pronti a riciclare, perché anche il riciclo del regalo di Natale si può fare. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, esattamente da Sesto San Giovanni. Eccolo. Che succede a Sesto San Giovanni? Ah, guardi, no, io prego tutti di non farmi più cesti natalizi riciclati, a sua volta già riciclati. I cesti? Perché mi è successo l'anno scorso che ho ricevuto un bel cesto, devo dire, con delle belle, insomma, cose da mangiare. Delle buone cose all'interno, soltanto che quando ho aperto il cesto c'era scritto tanti auguri Carla. E lei chiaramente non ha delle carle in famiglia, quindi non era diretto. No, non ho carle, era proprio un regalo che la mia cliente ha pensato di farmi. Bisogna allora stare attenti, almeno questo, perché se no togliamo almeno i cartellini, perché sennò è una brutta figura. No, anche perché io a mia volta l'ho regalato al mio avvocato alla cena di Natale, però ho pensato bene di non lasciare, di lasciare dentro il bigliettino auguri Carla, ma ci ho messo anche tanti auguri Francesco. Per cui alla fine era un regalo riciclato tre volte. Cioè Carla, Francesco, un casino. Però lei aveva una storia sui dopo barba, o ho capito male? No, la storia di Pepe Barba, sì, l'ho sostituita poi in questo momento, perché la storia molto bella era questa, che praticamente nella famiglia mia, di mia moglie, 10 anni che c'è un Pepe Barba che gira in continuamente, nel senso che il fratello lo regala all'altro fratello, poi l'anno dopo lo incarta e lo regala a questo punto me. Però spero che sia diventato un gioco, cioè, oppure no, inconsapevole. Anni tu non hai idea a chi precisamente regala questo regalo, per cui vabbè, questo è un gioco, è anche divertente. Grazie Paolo, ci ha dato anche un suggerimento per cominciare un tormentone da questo Natale in avanti, cioè lo stesso regalo che poi si sa già che gira e qualcuno arriva, e quello cornuto di quest'anno, insomma, va bene. Ok, allora per le telefonate oggi ci fermiamo qua, adesso tra poco col prossimo ospite. Si può fare anche questo, trovarsi in un punto di Milano, che non so esattamente quale, e promettersi degli abbracci gratis. Siamo forse nel tema osé che abbiamo toccato nella prima parte del programma, con i calendari femminili, o forse no, lo chiediamo ad Alessandra Melidonis dell'Associazione Nuovi Orizzonti, una delle promotrici di questa iniziativa. Buongiorno Alessandra. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Abbracci gratis è bellissimo, intanto, perché viene proprio voglia di venire lì e di farsi abbracciare. Che cosa succede, dove, quando oggi a Milano? Allora, succede in realtà domani pomeriggio, dalle più o meno 3:30 in poi, in corso Vittorio Emanuele, a Milano, ed è un'iniziativa che a Milano abbiamo già fatto altre volte. Non è una cosa osé, no? No, anzi, guarda, è una cosa meravigliosa. Praticamente siamo persone di Nuovi Orizzonti e anche non, che portiamo avanti questa iniziativa, che è nata come tante iniziative che poi hanno davvero un fondo di bene, non da noi, anche in America la fanno, ed è un momento in cui cerchiamo di offrire alle persone di fermarsi un attimino nella frenesia di questo periodo dei regali, del Natale, eccetera, per farsi abbracciare. Proponiamo un abbraccio, che di per sé può sembrare una cosa banale. In realtà quello che avviene è che se lo si fa in una certa maniera, mettendoci dentro il cuore e volendo soltanto passare all'altro la propria pace, la propria gioia, la propria serenità, si è ben accolti. Altrimenti... Guarda, sì. Io mi immagino però le facce della gente quando vi vede arrivare con le braccia allargate che li volete abbracciare. Allora, guarda, la maggior parte sorridono, molti, qualcuno giustamente ci dice anche di no, gli altri si fermano e è come se facessero i conti un pochino con la propria vita, nel senso che tanti ci dicono: io è proprio tanto tempo che non abbracciavo nessuno. Alla è come faccia. Andare oltre un muro fatto davvero di fretta, di indifferenza, di velocità soprattutto. Cioè voi arrivate e uno tac in un attimo realizza che l'ultima volta che ha abbracciato qualcuno sono passati dei mesi, e allora si sente gelare il sangue e dice: vabbè, almeno questo abbraccio facciamolo, un po' questo, no? Sì, lo ricambiano, ci ringraziano, qualche volta ci chiedono perché lo facciamo, allora lì è l'opportunità anche di fermarsi a parlare, tante persone hanno desiderio di essere ascoltate, e con tanta semplicità così ci proponiamo nel dare qualche cosa di bene dentro questa vita che forse tanto non ne ha. Ecco. E poi ve ne andate via tutti abbracciati insieme. Guarda, alcuni si fermano e ci chiedono se possono farlo anche loro, altri invece ci guardano con curiosità e difficilmente però vanno via senza avere cercato di capire o comunque negativi. Beh, insomma, quindi un passaggio di cose positive tra voi e la gente, e poi tra la gente e via andare. E ricordiamo allora l'appuntamento, così domani qualcuno fosse incuriosito per vedere questa performance. Certo, vi invitiamo tutti domani pomeriggio alle 3:30 in corso Vittorio Emanuele. Benissimo, ci sarai tu e tutti quelli. Sarò io, ci saranno tante altre persone, tanti ragazzi giovani dell'Associazione Nuovi Orizzonti, e persone anche di una certa età, bambini, saremo proprio in tanti. Sarebbe bello che diventasse una cosa super contagiosa, una mega moda e via andare. Grazie Alessandra Melidonis, questo succederà domani a Milano, abbracci gratis se volete divertirvi. andateci. Ci fermiamo qua anche per oggi. Io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Giorgio De Luca in redazione in assistenta oggi in diretta, Valeria Bernardi in regia, Andrea Piana che ha scritto con me il programma. Siamo un bel gruppo. Io sono Alessio Maurizi, ci trovate su Facebook, su Twitter, da tutte le parti. Ci sentiamo domani a mezzogiorno. Si può fare, buona giornata.